Again, a tenor by Franz Pisani, accompagnat men maestro l'organista Carmelo Costa, compositioni Kinet tel canoncum Manuel Mikalev, li Sam Malcolm, angustia possedit me. Franz Pisani, quien accompagnat mel quartet fal, tal basilica da Birkirkara, Santa Elena. Ande bicciasol ora tal estes tenor, però vos ne bisa ille mai colisci chance ille insomma hilcom. Gnecciol Ihor Sabir, via edu sitte, ucol ille kinet composizioni tal canonco Lorenzo Fenech, l'organista da Bohra, quien Carmelo Costa, ektas ille min habba li andi hafna sciolietu, hafna ari schnablirkom, mai colisci chance ille inconista insomma hilcom. Il hinua, isse bonofs.